Storiacce di Raffaella Calandra. Trasmettono tanta paura, ci sono altri, ci hanno riferito che ci sono altri che stanno cercando per partire nonostante le condizioni climatiche. Tantissimi di loro parlano di organizzazione già sul posto, già organizzati, già tutto pianificato. In fila, uno dietro l'altro, aspettano. Aspettano di essere identificati e interrogati. E anche la lunghezza di questa coda all'interno del centro di accoglienza di Pozzallo, il segno di un'emergenza immigrazione diversa dalle altre. I migliaia sono già arrivati in Italia in questo inverno di sbarchi come mai prima, e molti, molti altri ancora, dall'altra parte del mare, sulle coste di una Libia ormai fuori controllo, sono già pronti a partire. Nonostante i temporali, nonostante il mare in burrasca, ma questa non è un'emergenza immigrazione come le altre. Dall'altra parte del mare non ci sono solo profughi in cerca di una vita migliore, ma ci sono anche i terroristi che puntano a creare il caos nel sud d'Europa. Anche con qualche azione eclatante in mezzo al canale di Sicilia, si infrange questo interrogativo sugli scogli di questo estremo avamposto meridionale d'Italia. Il mare in burrasca si sente anche all'interno del centro di accoglienza di Pozzallo, e da qui parte questa nuova puntata di Storiacce. Il deterioramento della situazione sul terreno e la crescente minaccia terroristica porta anche all'aggravarsi del dramma delle migliaia di persone che fuggono via mare sui barconi verso le nostre coste. I dati a disposizione sono molto chiari e ci dicono che il numero degli sbarchi è molto aumentato rispetto allo scorso anno. Dal 1 gennaio a metà febbraio sono infatti arrivati nel nostro paese 5.302 persone, mentre nello stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi erano stati 3.338. E ora eccoli qui, questi uomini soprattutto, in fila per essere identificati. Il passato per loro è in una montagna di sacchi neri pieni di vestiti laceri accatastati fuori dal cancello. Il futuro sta in una tuta che li rende tutti uguali, in questa coda per essere interrogati. I controlli ora sono maggiori, perché maggiori sono i timori per la sicurezza ora che il traffico di migranti in Libia è nelle mani del califfato. Sono gli stessi profughi, tutti provenienti dal centro dell'Africa, ma tutti partiti dalle coste libiche, a raccontarlo e a raccontare che altre migliaia e migliaia di persone sono pronti a partire verso l'Italia. I'm from Gambia almost about 10 months now. Mi sono mosso dal Gambia circa 10 mesi fa. Dal momento in cui sono arrivato in Libia, posso dire che la situazione è davvero molto pericolosa. Tutti sanno che ora è un teatro di guerra. E allora io e mio fratello ci siamo subito dati da fare per organizzare il viaggio per l'Italia e trovare una vista migliore. Perché la Libia non è più sicura per nessuno, nemmeno per i suoi abitanti, e anche loro si stanno ora organizzando per partire. Sul nostro gommone eravamo in 95. Non appena siamo entrati in acque internazionali abbiamo chiamato i soccorsi e per fortuna sono venuti a salvarci. Noi siamo partiti, nonostante tutto, perché la nostra vita era in pericolo. Ora in Libia le armi sono dappertutto, anche i bambini piccoli hanno pistole. Si può essere uccisi o rapiti per qualsiasi cosa. Possono fare quello che vogliono e tu non puoi andare in alcuna stazione di polizia a denunciarli. È pieno di gente che è pronta a partire per l'Italia, pieno. Ho visto a Tripoli migliaia di persone che stanno organizzando viaggi per l'Italia. E quasi tutti quelli che li organizzano sono armati. Direi anzi che la maggior parte è membro dell'esercito. La mia barca arrivava dalla Tunisia. È la seconda volta che provo a venire in Italia. La prima volta a giugno. Siamo tornati indietro perché il tempo era troppo brutto. Eravamo due barche e una è tornata indietro. Stavolta siamo partiti comunque, anche con i temporali, perché se fossi rimasto lì sarei potuto morire con grande facilità. E allora ho preferito correre il rischio del mare. Ogni giorno prego per i miei amici che sono ancora in Libia, perché la loro vita è in pericolo di giorno e di notte. Noi per loro, noi gambiani, nigeriani, sudanesi, per loro siamo tutti Africans, ci chiamano così. Durante il viaggio ho pregato perché Dio ci salvasse. Rafia ha poco più di 20 anni e già una lunga vita sulle spalle. Per lui, come per tutti gli altri, vivere o morire a volte è questione solo di fortuna. Dentro alle stanze grigie del centro di accoglienza di Pozzallo ti guarda con gli occhi ancora spauriti di chi è sopravvissuto 2 volte, prima alle violenze della Libia, poi alle tempeste del mare. Dall'altra parte del canale di Sicilia ora infatti si può morire anche solo per la paura delle onde, come è successo ad un altro suo connazionale arrivato a Pozzallo ferito ad una gamba. A soccorrerlo anche Chiara Montaldo di Medici Senza Frontiere. Ha raccontato di essere stato costretto con la violenza, diciamo, a salire sul barcone, perché nella situazione caotica che c'è in questo momento in Libia a volte non tutti decidono spontaneamente di salire sui barconi, ma sono costretti dal caos generale e vengono forzati anche con la violenza, come nel suo caso, a salire sui barconi. Spesso non sanno neanche la destinazione, infatti ci chiedono dove sono arrivati. Spesso. Ma che cosa, ecco, questi ultimi, questo ragazzo che era stato, perché poi sono tutti molto giovani, che era stato ferito, e anche questi altri, che cosa raccontano anche di chi li gestisce e di chi in qualche modo li avvia su questi barconi? Ma raccontano che la situazione è molto caotica e confusa, nel senso che molti di loro erano già in Libia a lavorare da diverso tempo, alcuni anche da anni, e ora raccontano che c'è una situazione di caos e di violenza generalizzata che c'era anche nei mesi scorsi, ma che ultimamente si è intensificata, e quindi vengono soprattutto nei confronti degli africani subsahariani, quindi di pelle nera. Ci sono forme di violenza per le strade, vengono messi in questi campi di detenzione per migranti irregolari, dove vengono picchiati e dove vengono a volte anche contro la loro volontà messi sui barconi verso destinazioni che a loro sono sconosciute. Quindi è una situazione di caos, di violenza, dove chiunque, anche andando in giro, rischia la vita, anche prima degli ultimi fatti di cronaca, insomma, anche nei mesi scorsi. Quindi in qualche modo dal loro racconto è evidente molto chiaramente anche il cambiamento della situazione in Libia. Sì, diciamo che si è intensificata e si è estesa a tutti, cioè nessuno è più sicuro in quelle strade, mentre prima era diretta verso alcune nazionalità, verso gli africani subsahariani, adesso è una situazione più caotica e più generalizzata. C'è in qualche modo adesso tutto il tema dell'ISIS che gestisca parte di questi traffici dei migranti. Loro hanno parlato in qualche modo anche dell'organizzazione degli scafisti, di chi appunto organizza i loro viaggi? Loro raccontano a volte di loro stessi connazionali che hanno, diciamo, in qualche modo suggerito, consigliato, organizzato il viaggio, e poi sono stati messi in mano a libici, a volte militari, dicono, a volte civili, quindi è molto confusa anche la situazione dei cosiddetti trafficanti, perché dai loro racconti non sembra che ci sia un'organizzazione unica, ma semmai una rete o comunque molti attori, insomma, quindi passano dalle mani di un gruppo all'altro. Questo è quello che spesso raccontano, soprattutto chi ci racconta un po' di tutto il viaggio dall'inizio, dipende un po' dalla zona di partenza, ma molti ci dicono che a un certo punto vengono proprio consegnati nelle mani di qualcun altro, fanno il viaggio nel deserto, una volta che arrivano in Libia vengono consegnati nella mano di un terzo, quindi non è, almeno dai racconti, un'unica organizzazione, ma una rete. Anche questo, anche gli spari contro uno dei migranti, come i colpi di Kalashnikov contro le motovedette della Guardia Costiera, sono considerati un salto di qualità e il segnale di una regia diversa e più violenta dei viaggi. Ed è per questo che ora, lontano dai microfoni, un ufficiale si sfoga e dice: «Ora noi non sappiamo cosa troviamo quando usciamo in mare». Non più solo disperati in fuga da guerre e carestie, ma casomai anche estremisti armati pronti ad azioni eclatanti? Sequestri in mare da esibire come trofei, attentati come sperimentato già in altri teatri di guerra, o casomai terroristi infiltrati tra le migliaia di migranti? Gli 007 ripetono che non ci sono evidenze, che raramente l'ISIS imbarcherebbe propri terroristi su barconi fatescenti a rischio naufragio, ma vista da questa estrema periferia d'Italia, la percezione generale è quella di un rischio concreto. Chissà in mezzo a tutti questi immigrati che cosa ci possa essere nel mezzo. In questo momento io lo vedo in un modo tremendamente brutto. Nessuno in questi giorni a Pozzallo sorride, nemmeno il cielo. Gli abitanti di questo borgo, il più piccolo del Ragusano, si sentono soli e di nuovo in prima linea davanti ad un'emergenza ancora tutta davvero da scoprire. divisi tra la tradizionale accoglienza e la paura delle insidie che il mare stavolta può portare. Storiacce. La capienza del nostro centro è di 180 unità, attualmente ce ne sono 270, per cui c'è un 50% in più di capienza, per cui ci siamo un po' arrangiati, mi consente il termine. Che vuol dire arrangiate? In che modo concretamente? Penso che non possiamo garantire a tutti un letto materassi, coprimaterassi, questi sì, ma non un letto vero e proprio. Non è un problema di numeri per noi, quello che un po' preoccupa è questa storia dell'ISIS, per quelli, tutti quei risvolti di queste persone che potrebbero imbarcarsi, sbarcare tranquillamente qua, miscelarsi, mischiarsi con tutte le altre persone. Poi... È un aspetto che in qualche modo ho notato, che insomma molti chiaramente sottolineano, nel senso che anche c'è il dovere dell'accoglienza, del soccorso di chi è in mare, ma stavolta c'è anche questa componente di preoccupazione. Sì, è un rischio purtroppo va corso, perché prioritariamente c'è il salvataggio delle vite a mare, però il rischio c'è ed è concreto. Amplificato dall'eco delle onde alte, arriva qua giù anche il monito dell'ambasciatore egiziano a Londra sulla possibilità di barconi di migranti infiltrati dai terroristi dell'ISIS. E riecheggia questa paura nelle parole di chi, come Francesco Zaccaria, è delegato dal comune di Pozzallo per la gestione del centro di accoglienza dei migranti. Anche l'anno scorso, a febbraio, ci sono stati, credo, 7 sbarchi, per cui si parla di almeno 500 persone sbarcate a febbraio 2014, quindi penso che il trend è invariato. Certo, mettendo insieme quelli di Pozzallo con quelli degli altri posti, diciamo Lampedusa, Porto Empedocle, insomma le cifre dicono che potrebbero essere degli sbarchi maggiori, e così raccontano tutti anche che dall'altra parte, cioè dalla Libia, ci sarebbero tanti impronti a partire. Pozzallo, diciamo, sareste in condizioni di poter far fronte anche a sbarchi, una volta che il tempo migliora, anche più intensi? Noi in altre occasioni abbiamo utilizzato il palazzetto dello sport, abbiamo utilizzato la palestra di una scuola media per adibirla a centro di prima accoglienza, abbiamo utilizzato un vecchio casolare in campagna incontrata a Cifali, territorio di Ragusa, per cui siamo riusciti l'anno scorso, nel periodo di massimo flusso, a sopperire a 1000 presenze contemporaneamente, per cui ecco. In questo momento il centro è pieno? La capienza del nostro centro è di 180 unità, attualmente ce ne sono 270, per cui c'è un 50% in più di capienza, per cui ci siamo un po' arrangiati, mi consente il termine. Che vuol dire arrangiati? In che modo concretamente? Penso che non possiamo garantire a tutti un letto. Le segnalazioni dicono che dalla Libia ce ne stanno ancora molti altri, si parla di migliaia pronti a partire verso l'Italia. Pozzallo è uno dei primi avamposti, insomma, insieme a Lampedusa, Porto Empedocle. Ma guardi, non è un problema di numeri per noi, quello che un po' preoccupa è questa storia dell'ISIS, per quelli, tutti quei risvolti di queste persone che potrebbero imbarcarsi, sbarcare tranquillamente qua, miscelarsi, mischiarsi con tutte le altre persone. Poi... Il dovere dell'accoglienza, del soccorso di chi è in mare, ma stavolta c'è anche questa componente di preoccupazione. Sì, è un rischio purtroppo va corso, perché prioritariamente c'è il salvataggio delle vite a mare, però il rischio c'è ed è concreto. Sono un po' in qualche modo cambiate anche le procedure, sia in mare che per chi arriva, vista anche questa incognita sicurezza maggiore? Sono state attivate delle procedure, diciamo, più celeri rispetto a prima, una identificazione quasi istantanea e grandi numeri, anche, non so, da informazioni avute dalle forze dell'ordine, di massiccia presenza di persone pronte a partire, però ad oggi non c'è un riscontro, diciamo, a questo. Sì, però anche loro stessi lo raccontano, gli stessi profughi un po' lo raccontano. Allora mi chiedevo se in qualche modo anche negli ultimi, questi ultimi sbarchi è un elemento che è venuto fuori anche, diciamo, di questi viaggi diversi, di cui anche una persona che non voleva partire è stata picchiata, in un caso è stata anche gambizzata. Di numeri oltre le 100.000 persone pronte a partire, però è vero anche la storia che vengono indotti con la forza a salire sui barconi anche in condizioni meteo avverse, non gliene importa più di tanto, nel senso che devono obbligatoriamente salire su quel barcone e gli sviluppi sono poi minacce, percorse e la gambezzare anche, come è successo l'altro ieri, una persona. Anche questo un po' mi sembra un elemento nuovo, oppure voi... Non avevamo mai, soltanto qualche, a livello di percorso, qualche frattura, qualche maltrattamento, qualche ustione, perché non so, venivano bagnati con dell'acqua bollente, ma gambizzare ancora non c'era questa novità. È un elemento nuovo che in qualche modo è anche un po' preoccupante, perché vuol dire che possono esserci anche armi. È mai capitato una cosa del genere? Cioè un racconto di sbarchi con qualche arma a bordo? No, da noi non abbiamo mai rinvenuto armi sulle imbarcazioni, mai. La situazione in Libia sta precipitando velocemente e i primi ad averlo visto, vissuto e poi descritto, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, sono proprio loro, i migranti, che raccontano anche delle altre migliaia di persone pronti come loro a prendere il mare, pronti a partire per viaggi organizzati da uomini armati, militari, forse parte dell'esercito, dice Rafia, un gambiano che abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce. Si tratta anche di uomini del califfato? La realtà della presenza di gruppi terroristici in Libia deve essere valutata con attenzione, distinguendo tra fenomeni locali come Ansar al-Sharia, criminalità comune che si appoggia strumentalmente a questi fenomeni e realtà esterne rappresentate dai combattenti stranieri che rispondono a Daesh e che affluiscono da aree di crisi africane e medio orientali. Si tratta di fenomeni che si autoalimentano in questa fase, traendo vantaggio dall'assenza di un quadro istituzionale nel Paese. È evidente il rischio di saldatura tra gruppi locali e Daesh, e la situazione va seguita con la massima attenzione. I terroristi ci sono, il ministro degli esteri Paolo Gentiloni lo ha detto chiaramente in Parlamento, ma l'ISIS in Libia è una realtà recente e le minacce più autentiche non arrivano dai barconi, analizza Mattia Tualdo, esperto per il Consiglio d'Europa di flussi migratori dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Adesso la situazione è certamente diversa, è se possibile più seria rispetto al 2011, però la verità è appunto che non essendoci autorità governative in Libia, i numeri vanno sempre presi con le pinze perché non sappiamo chi le ha contate queste persone. Sappiamo poi che normalmente una gran parte del flusso in fuga dalla Libia in realtà va verso i paesi limitrofi, quindi verso la Tunisia. Questo è più difficile perché anche i confini sono oggetto di combattimento in Libia ed ecco perché fuggire verso il mare, anche se si sa che è pericoloso, è comunque meno pericoloso che rimanere in Libia o provare a fuggire verso dei confini dove i libici di per sé per ora sono per lo più sfollati interni alla Libia, che cercano di non allontanarsi troppo dalle proprie proprietà per paura che queste vengano saccheggiate o distrutte. E invece lei come valuta, diciamo, la possibilità, il rischio che proprio i viaggi dei migranti possano essere gestiti da parte del califfato? Per ora i viaggi dei migranti sono gestiti da organizzazioni criminali libiche, in collaborazione anche ovviamente con organizzazioni criminali nostrane. L'organizzazione del califfato o di Daesh è un'organizzazione criminale, che per ora non ci sono prove che gestisca questo traffico in Libia, ma che gestisce diversi traffici criminali nelle zone dove è più forte, come il Sinai e in Iraq, e che quindi potrebbe provare a gestire anche il traffico dei migranti nel Mediterraneo. In qualche modo ci sono stati dei segnali di un'organizzazione differente rispetto al passato? Sì, di un'organizzazione più forte e che ha avuto una crescita molto rapida. Non ci dimentichiamo che Daesh è stato creato in Libia a fine ottobre, quindi pochi mesi fa, che si è esteso fuori dalla cittadina di Derna, nell'est della Libia, ancora più di recente e che già comincia a farci paura. Però non confondiamo un grosso potenziale con una minaccia presente. Daesh in Libia ha un forte potenziale, può diventare qualcosa di molto molto pericoloso, ma è un'organizzazione appena nata della quale sappiamo anche molto poco e che possiamo prevedere poco in questo momento. Come considera anche la possibilità, il rischio che ci possano essere degli infiltrati anche, quindi, o comunque persone che possono puntare ad azioni eclatanti approfittando, diciamo, del canale di Sicilia? Penso che questa sia una possibilità, cioè che approfittino del canale di Sicilia per svolgere delle azioni eclatanti. Dubito che userebbero i barconi dei migranti perché vogliono vivere se vogliono morire, vogliono morire facendo un attentato sul suolo italiano, non affondando nel Mediterraneo. Ma c'è una storia di organizzazioni terroristiche che hanno usato il Mediterraneo per traffici di armi, per muoversi per esempio tra il Libano della guerra civile degli anni 70 e l'Italia degli anni di piombo. A quello dobbiamo pensare piuttosto che immaginare degli scenari in cui i jihadisti si mischierebbero ai migranti rischiando di affondare con loro. Però c'è chi pensa ad esempio che possano provare a, non so, a fare dei rapimenti, a fare appunto azioni eclatanti in mezzo al mare. Anche le minacce che ci sono state nei confronti della Guardia Costiera con quei colpi d'arma da fuoco in qualche modo sono sembrati un po' una spia. In realtà, diciamo, azioni di questo tipo da parte di organizzazioni criminali libiche avvengono da tantissimi anni, sia contro la nostra Guardia Costiera che contro le barche con sopra i migranti. Quindi diciamo che ISIS non farebbe nulla di nuovo rispetto a questo, però stiamo attenti appunto perché in questo momento circolano tante informazioni non verificate e non controllate, e l'importante è concentrarsi sulla minaccia che c'è, che è grande, ma per esempio ad oggi c'è solo un caso di un jihadista arrestato sui barconi, in tanti anni e su centinaia di migliaia di persone. Da dentro il centro di accoglienza di Pozzallo si riesce ancora a sentire il mare, con le sue onde lunghe e la sua voce furiosa di questi giorni di sbarchi e paure. Nell'antichità lo sapevano che il mare può portare anche insidie. E a questo punto la linea va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore dell'Università di Trento, autore per Sonzogno di libri sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Ci sono 50 profughe che arrivano dall'Egitto. Sono le 50 figlie dell'eroe Danao. Vogliono evitare un matrimonio combinato con 50 egiziani. Così sbarcano nella città greca di Argo e chiedono asilo al re del posto, che si chiama Pelasgo. Si accampano fuori della città e aspettano. Pelasgo è un re democratico. Dice che spetta all'assemblea decidere se accogliere le profughe. La decisione è difficile, quelle donne sono un problema anche perché gli egiziani minacciano una guerra per riaverle. Alla fine l'assemblea vota l'asilo politico alle 50 profughe, assumendosi tutti i rischi della decisione. Insomma, se volessimo scherzare potremmo dire che la città di Argo istituisce un centro di accoglienza per Danaidi, le figlie di Danao. Questo mito è raccontato in una tragedia di 2500 anni fa, Le supplici di Eschilo. Tra l'altro questa tragedia potrete vederla in scena quest'estate al Teatro Greco di Siracusa, in una versione che sarà sicuramente originale, con Monio Vadia come regista e protagonista. Eschilo non racconta tutta la storia, sappiamo che poi le Danaidi, rimpatriate in Egitto alla fine, costrette a sposarsi, ammazzeranno tutti e 50 i loro mariti. Ma al di là di questo finale cruento, dietro questo mito c'è la storia del Mediterraneo, che è da sempre storia di migrazioni, di spostamenti, di popolazioni, di sbarchi, di profughi, a partire dal primo profugo della storia italiana, che si chiamava Enea e anche lui era scappato in barca da una guerra. Grazie dunque a Giorgio Geranò, le storiacce per ora terminano qui. Vi ricordo che se avete vicende che volete sottoporci o storie che volete raccontarci, scriveteci un'email oppure mi trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, o su Twitter l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!